Corsa 24, i gialli della storia. J. Edgar Hoover è stato un gigante. Che uomo spaventoso. Ha fatto dell'FBI la migliore agenzia di sicurezza d'America. L'FBI vi è vicina. Il suo fine è proteggervi con tutti i mezzi nella vostra città. J. Edgar Hoover ha operato per il bene del nostro paese. Il comunismo è un vero stile di vita, malvagio e maligno. Non riuscivo a capire perché perdessimo tempo invece di combattere il crimine organizzato, che era il vero pericolo. Ha incarnato l'integrità. Uccideva i suoi avversari politici lentamente. Ha incarnato il patriottismo. Aveva contatti personali con boss mafiosi e persone colluse con la malavita. Goodfella, che vuol dire è uno dei nostri. Uno degli uomini peggiori nella storia americana. Per quasi 50 anni è stato al comando incontrastato dell'FBI, il servizio di sicurezza del più importante paese del mondo. È stato un uomo spregiudicato, i cui metodi sono stati spesso tra il lecito e l'illecito, tra la verità, la menzogna, il ricatto e il cinismo. È John Edward Hoover, il potentissimo ed eterno capo dell'FBI dal 1926 al 1974. Hoover ha lavorato con 8 presidenti, ha vissuto la Grande Depressione del 29, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, le contestazioni giovanili degli anni 60. E a garantire la sicurezza agli americani c'è sempre stato e soltanto lui, Hoover. Qualcuno l'ha definito la peggior canaglia d'America, eppure Hoover rimane una delle figure più controverse, ambigue e affascinanti della storia del XX secolo. Noi oggi a Mix 24 racconteremo la sua storia con le testimonianze di William Nels, assistente parlamentare, Harvey Mattinson, consulente del senatore McCarthy, del giornalista Jack Anderson e degli agenti dell'FBI William Turner e Wes Swearing. È una mattina come tante. Gli agenti sono in attesa. Il loro compito è arrivare per primi a mettere le mani sui dossier conservati dall'uomo che è appena morto in questa casa, a 77 anni. Il suo nome è J. Edgar Hoover. È stato il capo dell'FBI per 50 anni. Un suo vicino, che all'epoca ha 15 anni, lo ricorda così. Per quanto ci riguarda, era un vicino perfetto, simpatico, gradevole. Quando mi incontrava, scambiava sempre qualche parola con me. Una volta ci invitò da lui, me e mia madre, per presentarci il presidente Nixon. Così, senza che noi gli chiedessimo nulla. Quando gli riferiscono che Hoover è morto, Richard Nixon commenta sollevato, quel vecchio finocchio. C'era un via vai continuo. Non so chi fossero. Amici, agenti della CIA, dell'FBI. Poi due uomini caricarono il corpo su un furgone e se ne andarono. Era tra le 8:30 e le 8:40, non più tardi, come è stato detto dopo. Il nostro unico scopo era... L'impresario di pompe funebri afferma di aver prelevato il cadavere alle 12:30. E aspettare ulteriori istruzioni. Se portarono via un cadavere a 12:30, non era certo quello di J. Edgar Hoover. A J. Edgar Hoover viene tributato un onore mai concesso ad altri pubblici ufficiali. Il feretro è esposto nel Campidoglio. J. Edgar Hoover è stato un gigante. Ha fatto dell'FBI la migliore agenzia di sicurezza d'America. J. Edgar Hoover ha operato per il bene del nostro paese. Ha incarnato l'integrità. Ha incarnato il patriottismo. Che uomo spaventoso. Uno degli uomini peggiori nella storia americana. Ha violentato il paese e la Costituzione. Nixon avrebbe voluto mandare Hoover in pensione, ma non ne ha avuto il coraggio. Anche il suo predecessore, Lyndon Johnson, lo temeva e per questo l'aveva riconfermato alla guida dell'FBI. Lo stesso è successo con Kennedy, Truman, Eisenhower. Qualcuno dice persino che Hoover sia implicato nell'omicidio di Kennedy. Una cosa è certa, Hoover è potentissimo. Nasce a Washington il 1 gennaio 1895. Il padre è un impiegato statale. La madre ha origini svizzere. Entrambi sono protestanti di stretta osservanza. John Edgar frequenta la chiesa luterana, poi il tempio massonico. Nel 1917, dopo la laurea in legge, viene assunto al Ministero della Giustizia. Riceve l'incarico di sorvegliare gli stranieri sospetti. È talmente bravo che viene esentato dal servizio militare. All'indomani della rivoluzione russa ha il compito di vigilare sulla diffusione delle idee comuniste tra i lavoratori americani. Per Hoover è l'occasione per mettere in mostra tutto il suo odio per le minoranze, per chiunque non sia bianco, anglosassone e protestante. Fa arrestare migliaia di indesiderati, spesso nella più totale illegalità. Dopodiché li carica sulle navi e li fa espellere dagli Stati Uniti. Nel 1924 viene nominato direttore del Bureau of Investigation, che presto diventerà un'agenzia federale. Il primo poliziotto d'America ha un talento naturale per l'organizzazione. Meticoloso, metodico, aperto alla modernità, Hoover fa dell'FBI una macchina che ubbidisce ad ogni suo ordine e ad ogni suo capriccio, con uno strumento formidabile, l'informazione. Hoover fa prendere le impronte digitali a chiunque arrivi a tiro dei suoi agenti, perfino in strada. Al momento della sua morte, più di 160 milioni di americani sono schedati nei suoi archivi. Hoover si è dato un obiettivo ambizioso: sradicare la violenza. Pronti a sparare! Da un paese violento. Hoover inventa il G-Man, l'agente dell'FBI. Rispettoso della legge quanto dello stile d'abbigliamento che gli ha imposto. Il G-Man è incorruttibile, devoto. Preferibilmente celibe, non è autorizzato a sposarsi senza previa indagine sulla fidanzata da parte del bureau. Ed è rigorosamente bianco. Non sono ammessi neri, ebrei o ispanici, né tantomeno omosessuali. Dopo il college viene addestrato in una scuola dell'FBI e preparato per dare la caccia ai criminali. Sono anni di grande attività per l'FBI. Con il proibizionismo e la crisi economica del 29, i gangster fanno affari d'oro. Un'altra sfida per le forze dell'ordine. In questa ricostruzione ne vediamo alcuni. John Dillinger. Filmati di propaganda, appositamente commissionati da Hoover, ne glorificano le imprese. Babyface Nelson. Machine Gun Kelly, che conia il termine G-Man. Pretty Boy Floyd. Tutti sono stati catturati da agenti dell'FBI, alcuni dei quali hanno sacrificato la vita. E ci sono naturalmente anche Bonnie e Clyde. Negli anni 30, grazie all'arresto o all'uccisione di noti criminali come John Dillinger, Hoover diventa una leggenda. Il nemico pubblico numero uno alimenta le teorie più diverse. La verità è che non sono affatto gli uomini dell'FBI ad ucciderli, bensì gli agenti di polizia. La battaglia dell'FBI contro il crimine. Ma Hoover non accetterebbe mai che dei semplici poliziotti possano prendersi il merito e la notorietà. E così ogni volta il capo dell'FBI si precipita sul posto, si impossessa dei rapporti di polizia e si presenta alle conferenze stampa. Per l'opinione pubblica è lui ad aver sconfitto Dillinger e per costruire meglio il mito di se stesso ne commissiona la maschera funebre e l'appende in ufficio. Nessuno sa usare la propaganda come Hoover. Nessuno sa ostentare i propri successi come l'FBI e il suo capo. A dispetto della sua tradizione di rigore e indipendenza, la stampa americana si lascia manipolare. L'FBI vigila e le famiglie dell'America più profonda si sentono rassicurate. L'epoca della conquista del West è finita. Commercianti e allevatori delle città di frontiera ne hanno abbastanza dei pistoleri. Vogliono solo tranquillità e venerano questo onnipresente protettore che Dio ha inviato per loro, J. Edgar Hoover. Quella degli anni 30 è un'America che non ha dimenticato lo spirito originario dei pionieri. Un'America che vuole venerare in pace e a modo proprio il nome di Dio. Hoover offre agli americani la sicurezza non solo personale, ma soprattutto materiale. Alexis de Tocqueville l'ha scritto con chiarezza. Negli Stati Uniti nulla è più importante della ricchezza. È l'idea calvinista suggerita dalla Bibbia, letta ogni domenica dal pulpito. Avere successo è il segno che Dio ti ha scelto per rappresentarlo sulla terra. L'americano medio preferirà sempre un gangster che cerca di arricchirsi ad un comunista che vuole privarlo dei suoi sudati guadagni. E Hoover difenderà i suoi concittadini dal loro vero nemico, il comunismo. In un mondo in piena crisi economica, le idee di sinistra trovano terreno fertile. Si insinuano nell'animo di milioni di disoccupati e indigenti. In America il fenomeno è più limitato che altrove, ma Hoover, che respinge ogni idea progressista, vede il male dappertutto. Mette sotto sorveglianza poveri, sindacalisti, intellettuali liberali. Li fa intercettare, infiltra tra loro i suoi agenti, li fa pedinare. L'America tace e acconsente. Pur di estirpare il germe della rivoluzione, tutto è concesso, anche l'appello alla delazione. L'FBI vi è vicina, basta prendere il telefono. Il suo fine è proteggervi con tutti i mezzi nella vostra città. Vi appartiene. Il numero dell'FBI per ogni vostra esigenza è il 7117. In tutti gli anni 30 Hoover consolida il suo potere e controlla qualsiasi desiderio progressista. Il suo nemico è il comunismo e tutto quello che si avvicina a delle idee di sinistra. Ma un altro pericolo si affaccia all'orizzonte. Siamo a metà degli anni 30 e il nazismo sta facendo sentire la sua voce anche negli Stati Uniti. E Hoover viene chiamato a combattere anche questa nuova minaccia e lo farà ancora una volta a modo suo. Con la storia di Edgar Hoover riprendiamo dopo la viabilità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la storia di Edgar Hoover, il capo dell'FBI e del suo sconfinato e controverso potere. Siamo alla soglia della Seconda Guerra Mondiale e la minaccia del nazismo preoccupa l'America. Il nazismo può essere fermato e sarà fermato. La minaccia della guerra spinge il presidente Roosevelt ad un passo azzardato. A mali estremi, estremi rimedi. All'efficiente e popolare capo dell'FBI, la Casa Bianca affida anche la protezione del paese dai nemici esterni. Hoover da questo momento ha carta bianca per controllare qualunque idea circoli in America. Il suo primo passo è ridimensionare pubblicamente il partito nazista americano, piccolo ma significativo. Hoover tiene a far vedere come i suoi agenti lo controllino. Fa intercettare dei sabotatori tedeschi arrivati su un sottomarino. Sulla costa di Long Island, ma l'FBI era lì. In realtà il sabotatore è un fuoriuscito tedesco che ha avvertito l'FBI al suo arrivo. Ma poco importa. Hoover ha l'occasione di mostrare che i nazisti vogliono sabotare la potente industria bellica americana con dei petardi. Nonostante l'isterismo, nessun vero sabotatore sarà mai arrestato durante la guerra. Sotto silenzio, l'FBI si accanisce su persone di sinistra e sui pacifisti che si oppongono all'entrata in guerra dell'America. Non fanno un passo senza la sorveglianza dei loro angeli custodi. Dietro i pacifisti il vero obiettivo è sempre lo stesso, il Partito Comunista. Nel 1941 l'America entra in guerra. L'ora è grave. Hoover impara ad utilizzare i moderni mezzi di comunicazione come il cinema. PSM 151. Al mio 3. Va bene. 3. Può andare. Uomini e donne combattenti, voglio parlarvi della battaglia degli Stati Uniti. Forse vi starete chiedendo cosa intendo. Forse vi chiederete... Stop! Forse vi chiederete se quello che sto per dirvi ha a che fare... Stop! Il Grande Fratello passa gran parte del suo tempo ad occuparsi di statistiche. Deve giustificare l'aumento costante dei finanziamenti e dei suoi uomini, che sono passati da 700 a 7000, ma senza ottenere grossi risultati. Alla fine di ogni mese, per far quadrare i conti, ordina ai suoi agenti di arrestare dei ladruncoli o di attribuire delitti a ignoti sabotatori comunisti. Intanto la mafia comincia ad espandere i suoi tentacoli in tutta l'America. Per Hoover, tuttavia, Cosa Nostra non esiste. Il potere di Hoover cresce in parallelo a quello della mafia. Alla morte di Roosevelt gli succede il suo vicepresidente, Harry Truman. È un uomo onesto, che non ama Hoover, come del resto il suo predecessore. Sono lieto di parlarvi dalla mia casa. Hoover aveva cercato di indebolire Roosevelt mettendo sotto sorveglianza la moglie, Eleanor, accusandola di frequentare uno scrittore di sinistra e di essere, per quanto incredibile possa sembrare, una donna di facili costumi. Quanto a Truman, per garantirsi la rielezione, riconferma il direttore dell'FBI, ma affida la sicurezza esterna alla CIA. Hoover è furibondo e decide di sostenere con tutte le forze il rivale di Truman, Thomas Dewey. Contro ogni aspettativa, Truman viene rieletto. Hoover impara la lezione. D'ora in poi sarà lui a scegliere i presidenti, con ogni mezzo. Hoover uccideva i suoi avversari politici lentamente e con metodi molto più dolorosi di un colpo di pugnale o di pistola. Prendiamo Adlai Stevenson, ad esempio. È incredibile ciò che gli è stato fatto. Quando si è candidato alla Casa Bianca con i democratici nel 52, Stevenson era semplicemente celibe. Ma Hoover, ovviamente, mise in giro ben altre voci sul suo conto. Tutte false, chiaramente. Alla convention democratica, alcuni suoi uomini sparsero la voce tra i delegati che Stevenson era omosessuale. Insieme ad un collega ricevemmo l'ordine di indagare sulla presunta omosessualità di Stevenson. Passammo 3 giorni a girare bar e ritrovi per gay. Un giorno un tizio ci disse: l'ho visto qui mentre beveva un bicchiere con un altro uomo. Aveva bevuto un drink in un bar. E questo bastava a far di lui un omosessuale? Ma era il genere di informazioni che Hoover cercava. Hoover appoggia il candidato repubblicano Eisenhower. In un paese dominato dallo spoil system, in cui gli incarichi cambiano in base alla presidenza, Eisenhower conferma Hoover per altri 8 anni. Hoover è all'apice del potere. Tutti lo venerano e lo glorificano già da vivo. Ma il controllo che esercita sui suoi uomini si trasforma in tirannia. I metodi di Hoover sono sempre estremi e spesso superano la soglia della legalità. E sarà la guerra di Corea e la guerra fredda l'occasione con cui si esprimerà al massimo nella sua lotta contro il comunismo, anche se in realtà è solo un modo per accrescere il suo potere. Con la guerra di Corea, il vento della guerra fredda che soffia dal Cremlino è una manna per Hoover. È l'occasione per estirpare il comunismo dagli Stati Uniti. Grazie a lui, un partito con poche decine di migliaia di iscritti diventa una minaccia nazionale. Hoover si esprime con decisione sull'argomento. Il Partito Comunista Americano è la quinta colonna dell'Unione Sovietica. È organizzato meglio dei nazisti e ramificato nel paese. Il suo obiettivo è rovesciare il governo. Non c'è alcun dubbio su chi siano i loro veri padroni. Sono fedeli alla Russia, non agli Stati Uniti. Il comunismo è un vero stile di vita, malvagio e maligno. È per certi aspetti simile ad una malattia, che si diffonde come un'epidemia. Deve essere messo in quarantena per evitare che infetti la nazione. Sto tenendo in mano... Al fianco di Hoover c'è il senatore Nixon. Ha inizio la caccia alle spie comuniste, infiltrate negli apparati dello Stato. Nasce la Commissione per le attività anti-americane. Eravamo tornati all'Inquisizione spagnola. Fu un periodo terribile. Voglio sapere se è un membro del Partito Comunista. Il grande inquisitore è Joseph McCarthy. Ho posto questa domanda. Vorrei vedere che cosa ha... Davvero? Sì. Ma dietro le quinte a istigare la caccia alle streghe è lui, J. Edgar Hoover. Erano amici, quasi complici. McCarthy aveva bisogno delle informazioni che Hoover gli forniva. Anche se erano tutte false. Quando iniziai a collaborare con l'FBI, ero un membro del Partito Comunista. Fu lo stesso McCarthy a reclutarmi per testimoniare. Fui pagato per mentire in commissione e avvalorare le tesi di McCarthy. Che so, per provare che i comunisti volevano rovesciare il governo, dicevo che lavoravo in una certa libreria dove gli esponenti comunisti si riunivano per discutere di libri sovversivi e progettare dei complotti. Testimoniai che nella redazione del New York Times c'erano 126 comunisti, anche se all'epoca il giornale aveva solo 79 dipendenti. Ma nessuno mise in dubbio le mie parole. La paura era tale che neanche il New York Times protestò. Anni dopo ho scritto un libro sulle mie false testimonianze. Hoover ha cercato di impedirne la pubblicazione. Temevo che arrivassero ad uccidermi. Ogni giorno mi svegliavo pensando, oggi mi fanno fuori. Quel libro mi è costato 4 anni di prigione. Dirigenti e militanti comunisti sono giudicati e imprigionati senza prove. Con loro artisti, liberali e persino semplici ammiratori di Picasso, Sartre e Kafka. Sorvegliati, intimiditi e arrestati. Con la storia di Edgar Hoover e dei suoi abusi di potere proseguiamo dopo la pubblicità. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison. Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino, di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, che oggi vi sta proponendo la storia di Edgar Hoover, il potente capo dell'FBI negli Stati Uniti per quasi 50 anni, un uomo senza scrupoli che accresce continuamente il suo potere e con alcuni scheletri nell'armadio. Hoover ha la passione per le corse dei cavalli. È il suo unico passatempo. Si lascia filmare mentre scommette pochi dollari. Ci sono altri che scommettono per lui e ben altre cifre. Le corse sono controllate dalla malavita e agli ippodromi si possono incontrare in segreto boss come Frank Costello, uno dei grandi padrini. Hoover frequenta cattive compagnie anche altrove. Ad esempio in Florida e in California, dove passa le vacanze. Hoover aveva contatti personali con boss mafiosi e persone colluse con la malavita. Non pagava mai nulla. Andava negli hotel più lussuosi. Prendeva una suite da $1,000 al giorno. Faceva la bella vita e lasciava che a pagare fosse qualcun altro. Era così che passava le sue vacanze. E chi pagava il conto? Rosenstiel, ad esempio. Louis Rosenstiel è un miliardario arricchitosi durante il proibizionismo. Conosce bene i mafiosi, ma è anche amico del capo dell'FBI. A Miami, Hoover frequenta lo stesso ristorante dei boss della criminalità. La proprietaria lo ricorda come un vero gentiluomo. A volte erano presenti nello stesso momento. Ovviamente non si parlavano. Uno stava seduto da una parte ed Edgar dall'altra. La situazione avrebbe potuto metterlo in imbarazzo. Quali capi mafia? Meyer Lansky, un vero gentiluomo, sì. E Frank Costello? Molto gentile, educato, cordiale. Santo trafficante? Sì, venivano tutti a cena qui. Scapolo incallito, Hoover è sospettato di essere omosessuale. È proprio questo lato del primo poliziotto d'America ad interessare la mafia. Soprattutto quando Cosa Nostra si trova in mano delle prove concrete. Si recavano nei club privé, frequentati anche dal cardinale Spellman. A volte partecipavano a festini in cui si travestivano da donne. Una volta fui invitato a una festa. C'erano McCarthy con il suo vice, il cardinale e Hoover. Era una vera orgia. C'erano solo uomini. La mafia può ricattare Hoover. Frank Costello ha in mano foto compromettenti su di lui ed è pronto ad usarle. Sono stato in prigione con Costello. Quando comparivamo davanti al giudice, ci ammanettavano insieme per 2 ore al giorno. Così abbiamo imparato a conoscerci. Quando parlavamo di Hoover, rideva. Nel mondo della mafia si usa un termine per indicare quelli che sono nelle loro mani. Goodfella, che vuol dire è uno dei nostri. E Costello lo diceva spesso, parlando di Hoover. Ma un senatore coraggioso, Estes Kefauver, ha deciso di attaccare la mafia. Istituisce un'apposita commissione d'inchiesta, il cui obiettivo principale è proprio Costello. Hoover ha fatto di tutto per ostacolare quella commissione. La nostra domanda principale era: perché non avete mai fatto nulla contro la criminalità organizzata? La sua risposta fu: non è compito dell'FBI, ma della polizia locale. Non dimentichiamo che Hoover aveva iniziato come piccolo impiegato anonimo, un funzionario statale come tanti. Poco alla volta ha creato l'FBI e l'ha modellata a sua immagine e somiglianza. E non voleva fallire. Perseguire dei ladruncoli è molto più facile che attaccare la criminalità organizzata. Hoover avrebbe potuto ottenere dalla politica tutte le risorse necessarie per combattere il crimine organizzato. Ma non alzò mai un dito. Nel 61, Bob Kennedy, divenuto ministro della giustizia, lo mise di fronte all'evidenza. Gli disse: guarda che la mafia esiste. E a quel punto Hoover dovette agire. Novembre 1960, l'America deve scegliere tra Nixon e Kennedy. È proprio il giovane senatore democratico a diventare presidente. La spunta per una manciata di voti, grazie al suo fascino, ai voti degli stati del sud, portati dal suo vice Johnson, ai voti dei neri e all'aiuto del padre, il vecchio Joe Kennedy, che dopo essersi arricchito con il proibizionismo, ha sempre sognato di vedere uno dei suoi figli alla Casa Bianca. Qualcuno dice che anche la mafia lo abbia aiutato a comprare voti. Hoover lo sa e Kennedy sa che lui lo sa. Inoltre il presidente sa che Hoover è informato anche delle sue avventure sessuali. Pare che Hoover ami ascoltare i nastri registrati nella saletta dell'aereo che Kennedy usa per spostarsi in campagna elettorale e su cui si intrattiene con ragazze squillo. Kennedy mi disse che detestava Hoover, ma che gli era politicamente impossibile sbarazzarsene. Appena eletto, la prima firma la appose sull'atto che lo confermava a capo dell'FBI. Kennedy sapeva che Hoover aveva in mano molti dossier compromettenti sul suo conto e non voleva che gli elettori ne venissero a conoscenza. Al minimo accenno ad un suo pensionamento, Hoover minacciava di vuotare il sacco. Sapeva tutto su Kennedy e Marilyn Monroe e su quella ragazza che Sinatra gli presentò a Las Vegas. Sapeva cosa accadeva alla Casa Bianca e aveva uomini dappertutto. Kennedy si faceva portare spesso delle prostitute. Potete immaginare la soddisfazione di Hoover. Non solo sapeva quando la ragazza arrivava alla Casa Bianca, ma sapeva nel dettaglio cosa faceva. Una volta arrivata lì... Hoover odia Kennedy e le sue idee liberali. Il sentimento è reciproco. Il presidente lo ostacola, affidando al fratello il dicastero della giustizia. Per la prima volta Hoover si sente controllato da un ministro. Bobby fece installare un sistema di chiamata diretta nell'ufficio di Hoover. Nessuno aveva mai osato tanto. Prima erano i ministri ad andare da lui. Un giorno, mentre discutevamo di una questione, Bobby disse: «E se chiamassi Hoover?» Non era mai successo prima. E io dissi: «Sì, perché no?» Premette il pulsante sulla scrivania e 5 minuti dopo si presentò a Hoover, tutto paonazzo in volto. Bob Kennedy fu il primo ad imporgli, senza mezzi termini, di indagare sulla criminalità organizzata. I Kennedy si sono dati l'obiettivo di sconfiggere la mafia. Una volta al potere, le dichiarano guerra. Hoover frena, con l'unica arma che conosce, il ricatto. Nei miei anni con Bobby, ricevevo continue note da parte di Hoover, inconcepibili per un subordinato, in cui segnalava tutte le avventure del presidente, e io le cestinavo puntualmente. John Kennedy, Hoover e la mafia sono protagonisti di una delicata partita a scacchi. Una partita dagli esiti imprevedibili. Il padre dei Kennedy aveva un dossier su Hoover che avrebbe potuto neutralizzare il ricatto che esercitava sui figli. I Kennedy potevano distruggerlo. Che genere di dossier? E i suoi legami con la mafia. Papa Joe sapeva tutto. Forse aveva materiale sulle perversioni sessuali di Hoover, non so. Ma di certo sapeva molto. Solo la mafia poteva neutralizzarlo. E così fece. Ecco perché, secondo me, Kennedy è stato ucciso. Non avrebbero potuto ucciderlo senza che Hoover lo sapesse. Hoover aveva 1000 motivi per volere la morte di Kennedy. E dopo l'attentato di Dallas si impegnò in ogni modo a depistare le indagini, quando invece avrebbe potuto svelare tutto. Hoover conosceva personalmente Jack Ruby. Lo contattò e gli disse: «Se non uccidi Lee Harvey Oswald, tu e la tua banda passerete grossi guai». In Texas, all'epoca, se uccidevi un criminale, potevi cavartela anche con 2 o 3 anni di prigione. Allora Hoover disse a Ruby: «Diventerai un eroe, ucciderai l'uomo che ha assassinato Kennedy». Poi, una volta che si fu sbarazzato di Oswald, si assicurò il silenzio di Ruby in carcere. È quindi possibile che Hoover fosse coinvolto nell'omicidio di Kennedy o che comunque non abbia fatto svolgere indagini accurate. Quello che è certo è che dopo la morte di Kennedy la lotta alla mafia subisce una battuta d'arresto, e questo con l'avallo di Johnson, che dopo il tragico attentato di Dallas è diventato il 36esimo presidente degli Stati Uniti. Prima di succedere a Kennedy, Lyndon Johnson è dirimpettaio di Hoover. Il capo dell'FBI e il futuro presidente si conoscono bene. Ma una volta alla Casa Bianca, anche Johnson vorrebbe sbarazzarsi di lui. Corre voce che Hoover abbia informazioni su un figlio che Johnson avrebbe avuto da una relazione extraconiugale. Il presidente è preoccupato. Con i suoi ricatti a sfondo sessuale, Hoover è il padrone di Washington. Ha dossier su quasi tutti i parlamentari, e loro, per paura, votano il bilancio dell'FBI a occhi chiusi. Spiega a Gordon Liddy, un ex agente dell'FBI, che avrebbe avuto un ruolo chiave nello scandalo Watergate. Ora vi spiego come veniva costruito un dossier. Un esempio tipico. C'è stata una rapina e, secondo una soffiata, il rapinatore si trova in un certo hotel a Washington, non lontano dal Campidoglio. Gli agenti dell'FBI perquisiscono l'hotel e entrano in una certa stanza. Non trovano nessun gangster, ma un senatore a letto con una ragazzina di 15 anni. Così lo hai in pugno? Gli agenti si scusano e se ne vanno. Ma al momento di stilare il rapporto, il superiore dirà loro: questo non ha niente a che vedere con l'indagine in corso, ma se lasciamo questa informazione all'interno del dossier, 3.000 agenti di questa divisione lo verranno a sapere. Bisogna fare sparire tutto. Ma ciò non è possibile senza l'autorizzazione diretta di Hoover, il quale ovviamente darà il suo assenso, ma trasferendo le parti incriminate nei suoi dossier segreti. In seguito, invierà un agente dell'FBI dal senatore. L'agente si scuserà a nome di Hoover e tranquillizzerà il politico, assicurandogli che nessuno ne verrà al corrente. In questo modo, il senatore saprà che Hoover sa tutto. Sì, questa situazione è andata avanti per almeno 30 anni. Erano in pochi a sfuggire ai dossier di Hoover. Hoover si presentava per un'audizione davanti alla commissione del Congresso e diceva: l'FBI sta effettuando 104 intercettazioni telefoniche in tutto il paese. Quando ci chiedevano di ritrarne una, ci limitavamo a cambiare indirizzo e sostituivamo il telefono con un microfono. I microfoni non erano contabilizzati. Ve n'erano a migliaia. Io mi ero specializzato nelle effrazioni di appartamento per collocarli. Hoover non parlava mai di microfoni. Li faceva installare a piacimento, senza autorizzazione. Neanche il ministro della giustizia ne era al corrente. John Kennedy si incontrò con Martin Luther King nel giardino della Casa Bianca, per timore dei microfoni. Per incastrare i suoi nemici, Johnson usa i dossier del suo amico Hoover come nessun altro presidente prima di lui. Se ne fa trasmettere più di 100. Sfogliarli è il suo passatempo preferito. La sua lettura della sera. In segno di riconoscenza, Johnson fa votare una legge speciale che consente a Hoover di rimanere alla guida dell'FBI oltre i 70 anni, l'età del pensionamento obbligatorio. La ringrazio, signor Presidente. Permettermi di rimanere all'FBI è la più alta gratificazione che abbia mai ricevuto nella mia carriera al servizio di questa istituzione. Confermato al suo posto, Hoover se la prende con i neri, dietro i quali vede il solito pericolo rosso. Sono gli anni delle lotte per i diritti civili. Per Hoover è inaccettabile. Io ho un sogno! Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi. Io ho un sogno. Anche Hoover ha un sogno: eliminare Martin Luther King. In nome dell'America bianca, Hoover si è prefisso il compito di distruggere il reverendo King. Con la stampa lo accusa di essere un bugiardo. Hoover aveva un dossier su Martin Luther King, contenente la testimonianza di una prostituta che lo descriveva come un pervertito. Durante gli spostamenti di King, Hoover fa collocare microfoni nelle camere degli hotel, nella speranza di poter registrare i suoi incontri sessuali. Poi chiede ai suoi agenti di divulgare le notizie alla stampa, ma i giornali rifiutano del materiale così equivoco. Proseguendo nel solco tracciato da Kennedy, Johnson promulga la legge sui diritti civili. Durante quella firma storica, Hoover è accanto a Martin Luther King. Per lui è un momento terribile. È presente anche il capo dell'FBI, J. Edgar Hoover. Nel 1964 King riceve il Nobel per la pace. Hoover è fuori di sé. Rifiuto di accettare l'immagine per cui il genere umano è per sempre condannato alla notte buia del razzismo. Hoover mi spedì a Stoccolma 2 settimane prima del suo arrivo per incontrare la polizia svedese. Dissi loro: attenzione a questo tipo, sorvegliate il suo seguito. E ci tennero aggiornati. Pare che nell'hotel dove alloggiavano, l'intera delegazione spese più soldi di quanti King ne ricevette per il premio Nobel. Hoover fa inviare una lettera anonima a King. Senza mezzi termini, gli viene consigliato di suicidarsi. Non servirà. Il 4 aprile 1968 a Memphis, Martin Luther King viene assassinato. 3 anni prima era accaduto lo stesso a Malcolm X, il leader dei musulmani neri. Hoover ricorre a tutte le armi a sua disposizione. Ricatto, calunnia, denunce anonime. I suoi agenti manovrano le fazioni le une contro le altre, allargando le divisioni tra i musulmani neri. Ad uccidere Malcolm X è uno dei suoi. Dopo Johnson e Nixon, il 37esimo presidente degli Stati Uniti, un vecchio amico di Hoover, con le stesse idee politiche e le stesse preoccupazioni. Nixon è stato il solo presidente di cui Hoover abbia avuto realmente paura. Ma erano vecchi amici. Nixon e i suoi alleati ultraconservatori erano infatti della stessa sponda politica di Hoover. Avevano tutti idee reazionarie di estrema destra. Per controllare gli avversari e garantirsi la rielezione, Nixon chiede a Hoover di eseguire furti e intercettazioni. Per un curioso paradosso, stavolta Hoover rifiuta. Dice di no proprio al presidente che gli è politicamente più vicino. Nixon si sente tradito. Ho scritto io la nota inviata a Nixon in cui si suggeriva il pensionamento di Hoover. Il presidente doveva solo annullare l'esenzione al limite di età di 75 anni. Nixon invitò Hoover a pranzo per chiedergli di ritirarsi volontariamente. Il presidente degli Stati Uniti non ebbe il coraggio di rimuoverlo di sua iniziativa. Anche lui temeva i dossier che erano nelle mani di Hoover. Deluso, Hoover lascia che Nixon risolva da solo lo scandalo dei dossier del Pentagono. Hoover non voleva più aiutarlo. Era troppo rischioso. Lo avrebbe fatto solo su esplicita richiesta scritta. Così la Casa Bianca creò il gruppo speciale di cui ho fatto parte. Per fare quello che in passato facevano gli agenti di Hoover? Esatto, esatto. Avevo dimestichezza con questo genere di effrazioni. Le facevamo spesso all'FBI. E lo stesso valeva per Howard Hunt, della CIA. Siamo stati io e lui a creare la nostra unità. È diventato in un certo senso l'Hoover personale di Nixon. Beh, forse mi sopravvaluta. Il seguito è storia. Il furto nella sede del Partito Democratico, lo scandalo Watergate. Ma Hoover nel frattempo è morto. Stavolta non può più mettere tutto a tacere per proteggere il presidente. Al momento delle dimissioni si dice che Nixon abbia mormorato: se Hoover fosse stato qui, tutto questo non sarebbe successo. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.